Magari stasera le scale della Fogna, Tony e Betty, a causa della conferenza stampa di Cesari, non le scenderanno, anche se la serata è in loro onore, anche se la Fogna è diventata di moda come sognava Fred. La felicità, forse ho detto, per i ragazzi del giubbo, la gioventù. Sì, hanno vinto. Persino Adriano indossa il suo peggior nemico, lo smoking. Passando il Dolce Blu è una canzone per i ragazzi del jukebox. Ballando qua, ballando là, ognuno trova la sua gran felicità. Dai, dai, dai, gira con me, dai, dai, dai, prendimi a te. Lire nulla più. Dai, dai, dai, gira con me, dai, dai, dai, prendimi a te, con ardore, con furore, baciami, baciami, baciami, la felicità, con un gettone, per i ragazzi del giubbo, la gioventù, la compra per 50 lire e nulla più. I ragazzi del jukebox hanno fatto fortuna, sono diventati anche loro dei raffinati. Dracula fa l'indossatore, Bill il marine sembra un cadetto di West Point, guardate Jimmy com'è compito, ma Paolo è sempre lo stesso. E tutto rischia di andare a rotoli perché i due divi si fanno aspettare. Anzi, sono convinto che non verranno più. Ma non ti preoccupare, vedrai che arriveranno. Calè, la gente comincia a protestare. Va bene, vai a calmare, su, vai, vai, vai. Se almeno ci fosse Fred qua. Fred ormai è arrivato, ha tutta l'America ai suoi piedi.